Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Benvenuti a tutti, ecco una nuova puntata di Un abuso al giorno, la cui mail è appunto unabusoalgiorno@radio24.it. Buongiorno, se ci ascoltate di prima mattina, buona serata, buon fine serata se ci ascoltate alle 20.45 in replica. Vi ricordo anche il mio indirizzo del blog presso l'home page del Sole 24 Ore. Il mio blog si chiama Guardie o Ladri, lo trovate nello spazio Agorà della prima pagina del Sole 24 Ore online, oppure robertogalullo.blog.ilsole24ore.com. Tratto dei soliti temi: legalità, diritti violati e criminalità organizzata. Allora, abbiamo ricevuto una lettera che riguarda il comune di Frosinone. La prendiamo come lettera simbolo di quello che potrebbe accadere anche in altri comuni italiani e di quelli che sono i difficili rapporti che spesso si instaurano tra chi ha diverse abilità e il momento di necessità di un comune che deve fare un concorso per assumere persone. Allora, accade che il comune di Frosinone ha bisogno di uno psicologo a tempo indeterminato, quindi una assunzione a tempo indeterminato. Ebbene, gli ipovedenti, i ciechi, rappresentati dall'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, appunto, esprimono il loro sconcerto per la esclusione di due psicologi ciechi iscritti all'albo, esclusione alla partecipazione al posto di funzionario psicologo indetto appunto dall'amministrazione comunale di Frosinone, quindi siamo nel Lazio. Per capire se si tratta di un abuso o se si tratta di un atto discrezionale di una pubblica amministrazione, condivisibile o meno, noi abbiamo chiamato a parlarne con noi Tommaso Daniele, che è il presidente dell'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti. Benvenuto Daniele. Buongiorno. Abbiamo chiamato anche Vincenzo Giannotti, che è un dirigente del comune di Frosinone, addetto appunto al personale, o meglio agli atti concorsuali. Benvenuto anche a lei Giannotti. Buongiorno a tutti. Partiamo da lei. Perché avete deciso, se lo avete deciso, mi corregga quindi se sbaglio, di escludere psicologi ciechi dalla partecipazione al concorso? Lei aveva parlato prima di attività discrezionale della pubblica amministrazione quando si appresta a fare degli atti amministrativi. Assolutamente. Come quello appunto di un concorso pubblico. Prima di effettuare, noi facciamo delle istruttorie e verifichiamo, voglio dire, la compatibilità rispetto alle esigenze del servizio dell'ente, di categorie che possono partecipare o non possono partecipare. Ora, per la fattispecie concreta vorrei fare, se possibile, un'analisi preliminare per quanto riguarda, voglio dire, l'accesso dei non vedenti all'interno del comune di Frosinone, precisando che la legge prevede espressamente che almeno una persona non vedente partecipi, per esempio, in maniera esclusiva all'interno del centralino, come attività di centralinista. Ebbene, noi ne abbiamo non uno, ma ne abbiamo avuti tre, di cui uno purtroppo è venuto a mancare di centralinista, e lo prevediamo, voglio dire, una sostituzione nel corrente anno 2009, se la legge finanziaria che è stata apprestata ci permette appunto di effettuare questa assunzione. Quindi nessuna prevenzione, mi pare di capire dalle sue parole, nei confronti, anzi, delle persone che non vedono. Benissimo. E volevo anche specificare che la quota prevista del 7% dei diversamente abili, ne abbiamo quasi il doppio, cioè abbiamo circa 14 persone che lavorano all'interno del comune di Frosinone, un comune che ha 280 dipendenti in totale. È d'accordo, e questa quindi comunque è la premessa. Veniamo invece al concorso. Ecco lì, perché avete deciso invece di farne a meno? Allora, il problema sono legati a due fattispecie. Prima di entrare nel merito, voglio dire, della decisione che è stata fatta dal punto di vista discrezionale, sono le attività che devono essere poste in essere che richiedono determinati tipi di precauzione. La figura dello psicologo e quello di pedagogista, che sono i due concorsi che abbiamo effettuato, rappresentano, voglio dire, un potenziamento dei servizi sociali e sono rivolte essenzialmente nelle scuole di infanzia, in quelle primarie e quelle di media inferiore. Ci sono circa, circa 33 plessi con una frequenza da parte, voglio dire, del personale psicopedagogico di circa una media di visita di 4 plessi. Ecco, io volevo invitarla un po' a stringere perché altrimenti non riusciamo a chiudere, diciamo così, questa premessa. Veniamo al punto. Allora, perché voi avete deciso di fare a meno di psicologi ciechi? Devo spiegare però purtroppo l'attività che devono svolgere. Ecco, la spieghi. A studenti che sono interessati in una situazione di disagio medio grave, che hanno appunto delle disabilità psicomotorie, plurimensionali, disturbi comportamentali, disturbi dell'attenzione, iperattività. Questi tipi di attività in effetti ci sono anche alunni autolesionisti o aggressivi, dove effettivamente uno psicologo primo di vista potrebbe avere delle difficoltà ad intervenire in maniera repentina in caso di situazioni gravi. Ecco, io vorrei, ecco, io vorrei interromperla un attimo. Quindi sì. Riassumo in maniera anche, come dire, paradossale, però bisogna farsi capire dagli ascoltatori. Allora, voi avete escluso gli psicologi ciechi, prevedendo oltretutto la disponibilità obbligatoria della patente di guida di categoria B per espletare queste mansioni, e quindi automaticamente un cieco non può avere questa tipo di patente, perché c'è necessità che gli psicologi guardino negli occhi gli alunni. Questo è il paradosso che vorrei raccontare e credo che su questo siamo tutti d'accordo. Quindi voi avete bisogno di persone che guardino anche negli occhi le persone ed è per questo che li avete esclusi. Allora, io a questo punto chiedo a Tommaso Daniele, qual è la replica del presidente dell'Unione Italiana Ciechi? Ma questa ultima affermazione è ancora più grave, perché io pensavo che si trattasse solo di mancanza di informazione sulle normative esistenti, sulla cultura, perché qui, ecco, il sindaco ha detto che c'è. No, non è il sindaco, non è il sindaco, è un dirigente dell'ufficio. Un dirigente del comune, allora. Sì. Ha detto che il comune è disponibile. Ecco, siamo ancora alla visione che i ciechi possono fare soltanto i centralinisti. Probabilmente questi dirigenti e questi amministratori non sanno che ci sono ciechi che insegnano all'università. Se uno psicologo viene iscritto all'albo, vuol dire che viene considerato idoneo. Ora, immaginare che per curare un bambino ci sia bisogno di guardarlo negli occhi, questo fa parte di una cultura veramente retrograda, insomma, siamo ancora ai tempi di qualche secolo fa. Allora, io la blocco un attimo, Daniele, perché ripasso la parola al dottor Giannotti. Allora, lei che cosa ha da dire a questo punto? Allora, innanzitutto non ho detto che lo devono guardare negli No, occhi. No, il paradosso è il mio, però dobbiamo far capire ai radioascoltatori, certo. No? Ecco. Oh, sulla parte della legittimità della discrezionalità amministrativa. Sì. Va precisato che, diciamo, la legge, proprio quella del 28 marzo del 91, la 120, prevede che, salvo che il bando di concorso non disponga in modo specifico e motivato che tale condizione comporti idoneità fisica specifica alle mansioni proprio al profilo professionale per il quale è bandito il concorso. Quindi, da un punto di vista legittimità, mi vorrei rifare anche altri concorsi di psicologi dove oggi viene previsto, voglio dire, un'intervista al comune di Frosinone, ma a livello, voglio dire, di informativa, prima di emettere il bando, ci siamo informati, voglio dire, di queste altre attività. Allora, io Giannotti la bloccherei un attimo, perché sì, le posizioni sono chiarissime. Voi dite un atto discrezionale, ci siamo informati, abbiamo preso le nostre precauzioni legislative, siamo in una situazione di correttezza, nessuna discriminazione. Da parte sua, il professor Daniele, presidente dell'Unione Italiana Ciechi, dice no, siamo ancora al Medioevo, in cui si pensava che i ciechi non dovessero avere alcun diritto e siamo ancora alla situazione in cui un cieco può fare solo il centralinista, posizioni completamente diverse. La parola conclusiva dell'esperto del Sole 24 Ore, avvocato fiorentino Gaetano Viciconte, amministrativista super esperto. Qual è la visione di un amministrativista tra i migliori in Italia? La ringrazio per il complimento. Dunque, problematica che è stata esposta si incentra su questo concetto di discrezionalità tecnica che il comune di Frosinone avrebbe utilizzato per avallare le scelte che ha compiuto. In realtà la discrezionalità tecnica a cui faceva riferimento il dirigente del comune trova una precisa regola normativa, che è quella di un decreto legislativo 216 del 2003 attuativo di una direttiva comunitaria in materia, proprio sulla utilizzazione delle persone che hanno purtroppo degli handicap nell'ambito dell'attività lavorativa pubblica e privata. E la norma è molto chiara, perché dice che nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, e purché la finalità sia legittima, nell'ambito del rapporto di lavoro si possono istituire differenze di trattamento rispetto a soggetti che sono portatori di handicap soltanto quando la natura dell'attività lavorativa o il contesto in cui l'attività lavorativa stessa viene espletata possa giustificare questa discriminazione. Ecco, e secondo lei giustifica il fatto di essere cieco l'eliminazione e l'esclusione dal concorso? Ma francamente mi lascia perplesso questa indicazione che dà il comune di Frosinone, perché pare dalla descrizione dell'istruttoria che faceva il dirigente del comune che questa scelta sia non tanto in relazione alla specificità del lavoro che deve essere effettuata, ma proprio alla svolgimento della professione di psicologo, che proprio in virtù di questa normativa a cui facevo riferimento non può subire limitazioni per i portatori di handicap. E oltretutto il fatto che sia iscritto è stato quindi regolarmente ritenuto idoneo a quel tipo di lavoro dopo l'iscrizione ad un albo, a mio parere è già, come dire, è un certificato abbastanza serio, no? Della capacità di espletare quel tipo di lavoro. Allora io ringrazio Gaetano Viciconte, ovviamente i radioascoltatori si faranno una propria opinione, la situazione, mi rendo conto, è molto complessa, non si può, come dire, tout court dire bene ha fatto il comune, male ha fatto il comune, ma ci deve far riflettere questo episodio, perché è un episodio delicato. Ripeto, non siamo qui assolutamente per dare la croce addosso agli amministratori, anzi la tematica, ripeto, è delicata, è tanto che sarete tutti d'accordo, cari ospiti, intanto vi ringrazio, che bisognerà tornarci su questo tema, andando magari a trovare altri esempi di concorsi in cui i diversamente abili sono stati esclusi con delle motivazioni sicuramente non prese a cuor leggero da parte degli stessi amministratori. Io ringrazio gli ospiti, grazie in regia Giacomo Spunta, in studio Laura Fagin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.